sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Cenno d'intesa con i suoi collaboratori, si comincia. Uno, due, tre. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Gabbiadini, prende il corridoio giusto, c'è Higuain per il 2-0 del Napoli. Fa tutto Gabbiadini, ripulisce questo pallone Pipita Higuain per il 2-0 al 20° minuto. Kuzmanovic che cerca il tocco verticale, è una buona idea, posizione regolare e poi piazzato, 1-0 Inter, cambia tutto subito, Shaqiri 3-50 e l'Inter è avanti. Torosidis, verde, ottimo pallone per Torosidis, Cervinho. Va il cileno, prova col destro, la risposta, poi c'è il gol di Basanta, pareggio viola. Palla forse un po' lunga, prova a arrivarci Darmian, l'aggancia, la tiene in campo, poi la mette in mezzo. Luigi Pardo è entrato in come questo momento va? In studio direttamente dal Celtic Park. Sì. Let's go. Bene, ho immagazzinato emozioni. Emozioni. Sì. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Signor Ferronato. Redazione. Senti, Pier, da un lato ci sono le immagini di Roma violentata, certo, dagli hooligans del Feyenoord, peraltro ben noti a tutti, tranne a quelli che dovrebbero averne avuto conoscenza. Dall'altro le istantanee comunque di 5 partite, 18 gol tra dati e presi. Una notte di Coppa come da tanto tempo non riuscivamo a vivere, perché è stata realmente molto emozionante. Bisogna in questo caso mescolare lo zucchero e il veleno e vedere che effetto fa. Sì, beh, ma insomma, non è la prima volta che succede che il calcio da un lato emoziona con la sua inesauribile forza di un fenomeno immaginifico straordinario che emoziona le persone, dall'altro si porta dietro degli effetti collaterali che ieri hanno toccato uno dei picchi più pesanti, perché è chiaro che insomma, quando purtroppo è successo nel passato che siano morte delle persone, è stato un dramma ancora più grande. Però in un certo senso, insomma, ieri, no, si dice banalmente siamo morti tutti, ma anche un olandese per bene di fronte a quelle immagini credo che rimanga scioccato e indignato e si vergogna anche un po'. Che effetto ti fa vedere Roma così? Che effetto ti fa comunque sapere che a Roma non è la prima volta, è l'ennesima in cui si paga tributi alla violenza dal fronte interno al fronte internazionale, eccetera. Te lo chiedo da più che altro da... Ma la prima cosa mi fa la bellezza della città già oggi, anche se chiaramente la barcaccia è stata rovinata ed è una vergogna e bisognerà chiedere, secondo me, l'ho scritto anche ieri sera, un risarcimento simbolico, perché si parla tanto di Europa con Barisoni, con Crociani, sì. Politicamente, economicamente. Io sono europeista, l'ho detto, ho fatto quattro Interrail e un Erasmus, quindi proprio io amo l'Europa, mi piace da morire. Però se l'Europa non fa una cosa simbolica nel momento nel quale un monumento viene danneggiato da dei vandali, ovunque potevano essere degli italiani che danneggiavano qualcosa in Spagna o in Germania, allora non esiste, allora veramente è soltanto la BCE, lo spread, il deficit PIL, il fiscal compact. No, deve essere qualcos'altro. Di fronte a una cosa del genere serve una presa di posizione formale dell'Europa e dell'Olanda, ovviamente, e serve un risarcimento simbolico, perché poi non sono i 200.000 euro, fra l'altro è appena stata ristrutturata l'elemento, oppure i danni di cui sentivo prima nel GR, parlano i commercianti, sono nulla rispetto al bilancio dell'Unione Europea, però il valore simbolico è molto importante, vuol dire allora veramente che siamo fratelli e se c'è un problema e c'è qualcuno che fa il cretino, c'è un'istituzione che ci tutela e che ci protegge. Se questa cosa non succede, e allora poi sono tante chiacchiere, no? Da romano mi fa dolore, te l'avevo detto già ieri a proposito di Campo dei Fiori, insomma sono luoghi meravigliosi, sono luoghi dove cogli veramente la bellezza, non soltanto a Roma, insomma in Italia ne abbiamo tanti ovviamente splendidi, e la cosa più triste è vedere questa gente che rovina qualcosa che è di tutti, che è anche loro, cioè, il vero paradosso è che è anche del turista, è anche dello straniero, è di tutti, è aperta da sempre questa città e questo paese in maniera meravigliosa, la bellezza è disponibile, fruibile per tutti, e invece loro la bellezza non gliene frega niente, è loro... Quindi, vanno lì e fanno il loro sporco mestiere. Esatto. Vanno lì e fanno il loro sporco lavoro. Poi parliamo anche di calcio, di questi quattro pareggi di segno diverso. Per il Torino a San Mamés sarà durissima, perché sappiamo com'è l'ambiente. La Roma ha confermato una crisi forse. La Roma secondo me può passare. Può passare? Sì. Dove trovare energie? In questo momento Roma, sembra non averne più. Sì, ma la Roma non è una squadra che... Il problema della Roma in questo momento gravissimo, pesantissimo, è che non vince più con nessuno. Che non riesce a fare la differenza in 90 minuti tosti contro nessuno, ma in una partita, però non perde mai, se vuoi, no? Il paradosso. Quindi io francamente la Roma, per quello che ho intravisto ieri, perché ovviamente ero a Glasgow, che va a Rotterdam e viene dominata dal Feyenoord e perde male, non ce la vedo. Posso vedere una squadra che in questo momento fa fatica a fare gol e deve farlo ovviamente, perché lo 0-0 non basta. Cioè, secondo me è molto equilibrata questa partita qui. È equilibrata quella della Fiorentina, la grande speranza è che possa veramente passare il turno. Ieri ha dato una bellissima dimostrazione di forza, però insomma siamo a metà del guado. L'Inter credo che al di là delle follie di ieri, se ci mette un po' di testa non dovrebbe avere grandi problemi. Il Napoli è già passato, il Torino la vedo dura, però... Chi lo so. Andiamo a Bilbao. Ma sì, perché? Insomma, voglio dire, perché no? Ieri il Torino comunque ha dimostrato di poterlo fare questo gioco. Già io non avevo grandi dubbi, ma insomma ha dimostrato di poter essere parte di questa partita. Diciamo, come dici tu, l'Atletico Bilbao non si porta a qualificazione da casa. Ma no, anche se il 2-2 fuori è pericoloso, vabbè, rischioso. Cioè già era un pochino favorito il Bilbao, è chiaro che dopo il 2-2 dell'andata è una situazione secondo me abbastanza simile a quella dell'Inter, al contrario, insomma. Sì. Traffico. Ma il Feyenoord deve iniziare col chiedere scusa e non difendere questi che sono dei barbari, perché non trovo altre parole. Tutti convocati. Credo che quello che sia accaduto è segno di barbarie e di inciviltà. Noi spesso ci buttiamo giù, noi non andiamo all'estero a fare queste figuracce, non andiamo all'estero a distruggere le città. Primo obiettivo, rimandare a casa quelli che vanno rimandati a casa in Olanda, porre il tema nei luoghi del calcio europeo, processare e condannare quelli che si sono resi colpevoli dei fenomeni di qui sopra. Io ho chiamato l'ambasciata olandese e ho detto con molta chiarezza: chi rompe paga. Ho anche avuto un colloquio al telefono con il ministro degli esteri per valutare quali sono le misure che possiamo prendere come città o come paese nei confronti di questi delinquenti, e ho detto con molta chiarezza al vice ambasciatore dell'Olanda che dal mio punto di vista quello che dovrebbero fare è stracciare i passaporti in faccia a questi violenti e tenerseli a casa loro. Qui a Roma non sono persone gradite. Queste che abbiamo sentito sono il Premier Renzi e Marino, sindaco di Roma, dopo quello che è successo ieri. Oggi Alessandra Bocci, Piera, avrei letto a pagina 4 della Gazzetta, fa questo ritratto lei di calcio olandese, di fenomenologie olandesi, sa praticamente tutto, gli spacca tutto olandese, il fenomeno della trasferta. Ciao Alessandra. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, non serviva la CIA o il Mossad, no? Per sapere che i tifosi del Feyenoord sono da maneggiare con cura. No, no, direi di no, perché è successo già qualche episodio all'inizio di questa Europa League, perché comunque loro hanno una lunga teoria di guai precedenti che si è interrotta per qualche anno semplicemente perché il Feyenoord era caduto in basso e quindi non si qualificava più per le coppe europee, e quindi no, direi che sorpresa e stupore, ecco, in Olanda appunto semmai c'è imbarazzo visto il grado sono riusciti ad arrivare. Secondo me la foto della barcaccia ha un impatto, ha avuto un impatto così emotivo forte, e naturalmente trattandosi di Roma, città dei monumenti e d'arte, tutto viene diventa infinitamente più grave, però ecco, direi che sono battaglie purtroppo molto frequenti e a volte facciamo finta di niente. Io capisco tutti i politici, ognuno per la sua, ricordiamoci che l'anno scorso a Milano sono venuti i tifosi dell'Ajax e qualcuno è tornato a fin di vita, quindi credo, io capisco tutti i discorsi che fa il sindaco di Roma, quelli del premier Renzi, però la verità è questa: col trattato di Schengen è molto difficile controllare le frontiere e i risultati purtroppo sono questi. La cosa bella è avere un'Europa dove c'è una libera circolazione, la brutta è che poi ci possono anche essere questi fenomeni da esportazione molto sgraditi. Un po' quello che dicevi tu, no? Ma l'Europa è parte civile. L'Europa è l'Olanda è parte civile, cioè l'Olanda civile è parte civile, cioè l'Olanda civile ha fatto una figura di merda ieri, che dovrebbero essere loro i primi arrabbiati, no? Però io quello che ripeto è che se l'Europa non interviene con qualcosa di simbolico su questa cosa qui, cioè non dà la sensazione che questo è stato qualcosa di vergognoso, che è un problema, che ci sono i fondi europei per rimettere a posto la fontana, che queste persone verranno punite, che l'Olanda chiede scusa, che l'Europa chiede scusa e che i monumenti tutti, di tutta Europa, sono un patrimonio di tutti, e se non fa questa cosa, allora ribadisco, non serve a niente, cioè serve soltanto a fare le speculazioni sui bond, per carità, che sono cose importantissime, perché poi la stabilità voglio dire, ci consente di vivere forse più sereni che se non avessimo avuto l'euro, secondo me. Però questo è un altro discorso. Qui siamo di fronte a una clamorosa occasione per dimostrare che siamo una comunità, se lo siamo. Senti, ma sul fronte sportivo è possibile tenere in giro un club che si porta dietro tifosi di questo tipo, siano del Feyenoord oppure serbi o croati o russi, ne abbiamo visti di tutti i colori in Italia. Guarda, a me il comunicato di ieri dell'UEFA arrivato a metà pomeriggio ma un po' sorpreso, perché è vero che gli episodi sono avvenuti ben al di fuori del perimetro dello stadio e delle zone di accesso allo stadio, però è altrettanto vero che l'UEFA negli ultimi anni ha molto accresciuto il suo livello di vigilanza a 360 gradi, quasi di responsabilità oggettiva da parte dei tifosi, quindi aspettiamo. È chiaro che allo stadio non è successo nulla e quindi paradossalmente tu non hai quello che era successo contro il CSKA, la chiusura dello stadio per i disordini fuori dallo stadio, nettamente meno gravi, almeno da un punto di vista di impatto e di rilevanza, no? Perché c'erano stati accoltellamenti e cose assolutamente non piacevoli, però voglio dire, non c'era stata quell'orda simbolica di 6.000 persone che invadono il centro della città e provano a distruggerla, e questo è quello che è avvenuto ieri. Quindi io non mi illudo di nulla, però penso che l'UEFA stia osservando con una certa attenzione l'episodio, e generalmente insomma questo aspetto dell'ordine pubblico l'UEFA lo tiene in grande considerazione. Lo vedi anche tu così, Alessandra? Sì, io sono abituata, appunto, avendo girato il mondo per mia fortuna con la nazionale olandese per molti anni, sempre discutendo di monumenti, ricordo un'invasione pazzesca nella piazza del Tor della Torre dell'Orologio di Praga, dove tutti ballavano, scherzavano, bevevano enormemente, però non era successo assolutamente nulla. Quindi è sciocco anche tutte le volte ripetere, però adesso mi sembra che ci sia, appunto, una, per usare un luogo comune, una levata di scudi contro gli olandesi e contro l'Olanda, che è un po' assurda. Il problema sono questi gruppi che tutti ben conoscono, come diceva Luigi, e così come ci sono in altri paesi, in alcuni paesi di più, in altri per fortuna di meno. L'Olanda ha risolto il problema a casa sua in maniera molto molto dura, perché ci fu un incidente gravissimo nel 97 quando si scappa il morto, poi le cose cambiano. e purtroppo all'estero, ripeto, è tutto molto difficile, è reso difficile da, anche secondo me, da una situazione contingente, in un momento in cui tutta l'Europa ha dei problemi gravissimi, allarme terrorismo e tutto il resto, magari su altre cose si tende ad abbassare la guardia, non dico che sia giusto, però probabilmente è comprensibile. Poi succedono queste cose che, ripeto, hanno un forte impatto e sono incivili, una città si ritrova gravissimamente danneggiata, però io credo che anche per la polizia sinceramente sia molto difficile sicuramente seguire e controllare queste persone. Ci sono riusciti gli inglesi con gli hooligans tanti anni fa, però gli inglesi hanno fatto un lavoro molto profondo, per anni ed anni, proprio perché oltre a anni ai vetri spaccati e tutto il resto c'erano scappati anche diversi morti. Questo naturalmente sicuramente esiste in Italia un elemento di fragilità nell'applicazione delle norme. Certo. Non so se avete letto il pezzo di Bonini su Repubblica di oggi, che si conclude con uno sfogo di un poliziotto fuori dallo stadio mentre finisce il servizio ieri sera, che dice: ma io se vedo uno che fa pipì in una piazza del centro che devo fare? Cioè c'è un certo senso di confusione da un lato e di frustrazione, perché molti dei comportamenti della polizia sono semplicemente improntati a quella che è la riduzione del danno, cioè cercare di evitare casini, ma poi le conseguenze non sono clamorose. C'è stato questo processo per direttissima dei tifosi olandesi dell'altra sera, ma insomma dai, è solletico, è quasi solletico, no? In altri paesi abbiamo avuto l'esperienza dei tifosi della Lazio a Varsavia, che da quello che ci risulta per molto molto molto molto meno si sono fatti giorni e giorni di carcere. Quindi chiaramente non deve essere quello il modello, però noi dobbiamo diventare da questo punto di vista un po' più credibili. Forse la cosa che possiamo fare culturalmente, lo dico, è cercare di non essere sempre disfattisti nei confronti di noi stessi, nel senso che noi abbiamo un sacco di casini, un sacco di problemi, e una parte della barbarie di ieri è dovuta anche alla nostra incapacità di prevenirla, quindi però ecco, qui in tanti ce lo scrivono, io sono d'accordo, non dobbiamo sentirci perennemente più sfigati, meno civili d'Europa, perché poi le tifoserie violente ci sono, purtroppo ci sono nell'est europeo in maniera clamorosa. Italia-Croazia, Italia-Serbia è successa recentemente, insomma abbiamo avuto se non sono i serbi, quindi, di Ivan sono i croati, se non sono i croati sono gli inglesi, no, siccome dall'estero ci fanno spesso, no, le pulci, e ci dicono che siamo unfit, che quella è unfit per governare, che quell'altro che siamo razzisti, che siamo 800 cose ci dicono, spero che usino la stessa attenzione di fronte a comportamenti di questo tipo. A me sembra che nelle ultime elezioni europee i movimenti più pericolosi in giro per l'Europa il 25% ce l'hanno in Inghilterra, cioè quei movimenti che sembrerebbero unfit, no? Per poter governare un paese, per poter dare prosperità, stabilità e serenità, non ce l'abbiamo noi, ce l'hanno più altri paesi, la Francia, l'Inghilterra, no? Premesso che poi ognuno vota chi gli pare, ci mancherebbe, però le elezioni dall'estero, francamente, dopo le immagini di ieri mi stanno un po' sulle palle. detto in francese Alessandro, prima di salutarti, dicevo prima, resta il fatto che però se non sono serbi di Ivan, sono i croati, sono gli olandesi, sono gli inglesi, abbiamo una lunga sequela di vicende di questo tipo che accadono di qui. Certo, sì appunto, quindi evidentemente ci sono delle fragilità strutturali. Non so bene cosa sia successo ieri a Roma perché non ero lì, però ripeto, poi riguardo al discorso culturale, a parte le lezioni dall'estero, spesso i maggiori polemisti ce li ritroviamo in casa, siamo spesso noi che facciamo che ci diamo la zappa sui piedi da soli, no? Riallacciandomi al discorso di prima di Pardo, per cui è vero che dall'estero ci criticano, ma forse siamo sempre noi a dare il là affinché ci critichino, e quindi anche di questo bisogna tener conto. Il problema culturale è vastissimo, e credo che ci sia anche un altro aspetto: troppo spesso quando succedono queste cose noi cerchiamo radici, giustificazioni sociologiche, giustificazioni politiche che molto spesso non esistono. Vero. Purtroppo si tratta semplicemente di sbandati, di gente che vuole menare le mani e che trova più divertente, in maniera così un po', questa è la forma di devianza, trova più divertente farlo nel centro di una città piuttosto che, come si usava negli anni Ottanta, ritrovarsi in una strada deserta, in una campagna, e prendersi a bastonate. C'è anche l'elemento mediatico che negli anni è cresciuto, fa una cosa come quella di ieri, va in giro in tutto il mondo. C'è una certa componente di vanità del Pirla, sì, però, la vanità però del anche Pirla. Qua poi sai, scusa ti interrompo, è vero, però cosa fai allora, non ne parli? No, si arriva certo, poi certo, alla, no. A dire vabbè questi qua sono dei narcisisti, pensano che sono contenti di ritrovarsi con la foto di Roma distrutta, però d'altra parte bisogna denunciare queste cose, raccontarle, questo è chiaro. E però ripeto, ecco, fare un po' meno di sociologia spicciola qualche volta forse aiuterebbe. Sono d'accordo. Grazie Alessandra, ciao. Grazie, ciao, ciao, buon pomeriggio. Ciao Alessandra Bocci, ci fermiamo per la borsa, poi Luca da Napoli, Giampiero da Terra, moto 0024 0024, numero verde, vorrei anche parlare di pallone, sì, se sì, col permesso di loro signori lo faremo dopo la borsa. I danni li stiamo ancora verificando, comunque abbiamo già verificato che alcuni frammenti, soprattutto dell'elemento centrale, sono distaccati, quindi siamo molto sconcertati di quello che è accaduto. Lo sport dovrebbe essere cultura, dovrebbe essere un valore condiviso e invece si trasforma in una occasione di ulteriore danneggiamento del patrimonio unico al mondo che Roma possiede. Si ricomincia! Convocati. Ti convocati, sì, 800240024, numero verde. C'è Alessandro che ti scrive che qualche problema con la libertà di voto. No, sì, un paio di messaggi, è l'esatto contrario. Cioè, quindi approfitto per precisare, cioè dall'estero spesso in passato sono state fatte allusioni sul fatto che insomma non si fidavano, non gli piaceva il modo in cui gli italiani governavano. Mi sembra che nelle ultime elezioni i movimenti che appartengono a questo tipo di area sono soprattutto di altri paesi, premesso che ognuno vota come gli pare, lo ribadisco, non ho nessun problema con la libertà di voto, ma questo te lo dico per dirti che noi secondo me siamo molto bravi nel farci le pulci e siamo molto bravi dall'estero nel venire criminalizzati, considerati come i soliti italiani ogni volta c'è un casino. Qui il casino hanno fatto loro, sì, questa, certo, questo è il concetto, questo per cui io mi aspetto che sulla stampa internazionale, da parte delle istituzioni internazionali che sono giustamente così brave nel denunciare le cose quando in Italia non vanno bene, e noi abbiamo i nostri problemi, le famose puncicate fuori, certo, da Roma, ma non soltanto da Roma, che spesso ci sono a margine delle partite italiane, non è che le possiamo cancellare, però la stessa attenzione credo sia intellettualmente onesto che ci sia quando i casini li fanno gli altri, certo, altrimenti noi sembriamo sempre il paese, l'inferno, di e di là sono tutti civili, sono ieri sempre. Abbiamo visto purtroppo drammaticamente che non è così, assolutamente. Luca, Napoli, buongiorno. Buongiorno, salve, saluti a tutti, complimenti per la trasmissione. Senta, io volevo fare qualche considerazione su ciò che è avvenuto a Roma, una considerazione e una domanda vorrei porvi, che poi volevo ascoltarne poi la risposta. La considerazione è, innanzitutto sono d'accordo sul fatto che ci sia l'evento mediatico che diciamo scomodo, che non dà visibilità, viene vissuto e viene preparato male a Roma, principalmente a Roma, e poi viene anche nelle conseguenze, quindi nel preventivo e nelle conseguenze viene anche gestito peggio. Sono d'accordo con questo che avete detto prima. Però faccio una considerazione: il sindaco Marino, le istituzioni, che hanno qualcuno che ha richiesto la rimozione del prefetto e di tutti coloro che sono responsabili, unici a non sapere che i supporter del Feyenoord sono quello che sono, non si sono indignati, né hanno chiesto rimozione quando l'anno scorso Ciro Esposito è morto in conseguenza degli incidenti sempre avvenuti a Roma, sempre perché mal gestiti all'inizio preventivamente e mal gestiti anche dopo, e che si sta tentando anche di sotterrare quella situazione lì, di metterla in un tunnel. Questa è la prima considerazione, e mi indigno del fatto che adesso oggi ci si su un monumento, per amor di Dio, tanto rispetto per Roma, che è la città più bella del mondo e quello che forse ci trasmette ancora una positività dell'antichità, però voglio dire, rispetto a una vita umana non ci si è indignati, ma certo, non dobbiamo fare i paragoni, la tragedia di Ciro Esposito è una tragedia terribile. Bilancia. Io ho invitato anche in trasmissione Antichità che ha due volte la mamma di Ciro Esposito, la solidarietà è totale, assoluta, perché comunque indipendentemente da quello che poi verrà stabilito dai processi è un ragazzo che è morto e gli dobbiamo il rispetto per un ragazzo che è morto in circostanze tragiche andando a vedere una partita di calcio, e quindi quella è stata una tragedia terribile, tremenda, ma questo spesso succede, no? Quando c'è quando succede una cosa se ne parla, dice sì, ma però c'è, sì, ma non è una questione di mettere non è che parlare di questa cosa di oggi significa bilancia, non parlare di quella cosa tremenda che è avvenuta in quel drammatico sabato di maggio, assolutamente sono due tragedie terribili, oggi parliamo di questo perché questa cosa è successa ieri, certo, poi possiamo possiamo andare avanti, possiamo indietro, andare indietro fino a quando vogliamo, però non si tratta di misurare la gravità dei fatti. Questa è cronaca. Sul primo elemento c'è un aspetto oggettivo, cioè che purtroppo le cose non funzionino. È evidente che in Italia ci sia, diciamo, una minore predisposizione alle dimissioni rispetto ad altri paesi in mille ambiti. Questo è assolutamente evidente. Insomma, poi sai, c'è anche chi ti dice che ho letto che è andata pure. Che è andata pure bene da un certo punto di vista. No, ho letto qualche ricostruzione, no, nel senso che con 6.000 olandesi, sì, alla fine ci sono stati 10 feriti. Poi alla fine io ho letto tutto, dei chiaramente... blog degli ultra olandesi che dicevano: ma noi siamo andati lì solo a fare quello che normalmente facciamo in trasferta, a bere, a fare casino. Poi la polizia ci ha menati. Gli unici che non si sono visti sono stati i tifosi della Roma e della Lazio, ma perché sono depressi. Quindi questo è grosso modo una ricostruzione. Meno male che non si sono visti. Ovviamente se la prendono con la polizia in questo eterno conflitto. Qui c'è un bergamasco juventino che ci scrive, secondo me, la cosa più giusta, più corretta. Dice: sono bergamasco juventino, ciò che è avvenuto a Roma mi disgusta, mi fa incazzare perché hanno maltrattato casa mia. Ecco, questo è il punto. Io credo che dovremmo tutti ritrovarci attorno a questo elemento qui, noi italiani soprattutto, ma anche l'Europa. Cioè, l'Europa deve. Io spero che lo stesso sentimento che ha questo tifoso della Juve di Bergamo ce l'abbia i vertici europei di fronte a quello che è successo ieri, ce l'abbiano le istituzioni olandesi di fronte a quello che è successo ieri. Tanto perché... sai che Massimo stia lì, sai che a Parma la situazione sta precipitando. Sì. Ovviamente questo è un altro fronte, un altro versante, un'altra storia totalmente diversa. Parma Udinese è stata rinviata. Il sindaco Pizzarotti questa mattina è stato con il Parma tutta per questa riunione fiume tutta la mattina. Donadoni ha cancellato l'allenamento del pomeriggio. Pizzarotti ha detto che da Manenti non c'è nessuna garanzia. Ebbene, Parma Udinese è stata rinviata perché non ci sono garanzie. Quindi questa partita non si giocherà domenica e vedremo se e quando si giocherà. Mi sembra che lì siamo agli sgoccioli di questa tragicommedia sportiva, naturalmente. Massimo. Buongiorno, ciao a te. Ciao. Allora, massima solidarietà con quello che sta succedendo a Parma, ma è molto molto molto importante l'ultima osservazione che ha fatto Pardo sull'identità. Io sono di Roma, vivo al centro di Roma e sono sposato con una tedesca, cioè un bambino nato in Germania. Quello che ci manca è proprio l'identità. Vorrei pregare l'abitante di Napoli, credo Luca, di ritrovarci su questo. Non iniziamo con i campanilismi, dividendoci con i problemi su Esposito, sulla Roma. Noi dobbiamo essere italiani e sollecitare l'Europa alla massima attenzione sul fatto che l'Olanda, che è la difensore, difende l'euro, difende il rigore, eccetera, eccetera, poi manda in giro questa gente. E evidentemente c'è un problema anche culturale loro, non siamo soltanto noi che ci fanno le pulci e che non siamo in ordine. Cioè, l'Europa è una cosa seria, se è una cosa seria noi diamo il buon esempio, ci sembra che ormai da alcuni anni non facciamo più casino in giro, dovrebbero cominciare anche loro. Ecco, è importante l'identità, cioè questo è quello che vedo che noi manca e che secondo me dovremmo mettere al centro. E vorrei vedere i titoli dei giornali che in qualche modo sollecitano, perché non può partire dall'Europa. Se non siamo noi ad alzare un po' la voce, credo che loro per abitudine nel trattarci male non lo faranno. Insomma, questa è l'esperienza di 14 anni di vita in Germania, insomma, parte in Germania, ecco, il weekend lo passo lì. Questo è quello che vedo. Io spero che ci ritroviamo quello che stavamo dicendo ora, forse può essere anche l'occasione. Andiamo all'estero, torniamo all'estero, c'è Filippo Maria Ricci. Ah, però. Ciao Phil. Buon pomeriggio. Come va da quelle parti? Abbastanza bene. Ieri brutto. Io alla fine sono romano, sta cosa è orrenda. Guarda, giornali spagnoli che dicono? Giornali spagnoli che dicono? Media spagnoli. No, l'hanno ripreso alla grande, ne hanno parlato parecchio e insomma sono scandalizzati. Beh, loro, quelli del Feyeno l'hanno fatto danni anche qui a Siviglia, per cui un po' lo sapevano. Non si sorprendono più di tanto, però c'è la sorpresa di Roma, del centro, della Parcaccia, della Fontana del Bernini, lì è lì che il dente duole ancora di più, perché questo non è il semplice hooliganismo che sappiamo essere un tratto distintivo del football moderno come di quello antico, per quanto la gente dica di no, ma è così. Però qua c'è l'aggiunta che si sono presi una città poi come Roma, così, per, senza che alla fine nessuno dicesse niente, insomma, ecco. Sì. Quindi no, la notizia ha avuto ampio risalto, insomma, ecco, non so, forse probabilmente in Inghilterra di più, perché sono più sensibili al tema, però insomma, ecco, qui è stata lì, insomma, ha avuto forte impatto come, sì. come in tutta Europa, peraltro. Fine, ci fermiamo per il traffico. Vi do un risultato sportivo che riguarda il primo quarto di finale della Coppa Italia di basket, che è iniziata ad Esio. Le prime quattro partite oggi, una si è appena conclusa con Brindisi che va in semifinale, ha battuto 80-70 Venezia. Ci vediamo per il traffico e poi un po' di pallone. Coccolino! Ah, coccolino! Sì, perché ha bisogno un po' di coccole. Allora le voglio cantare. E coccolino amoroso, cocchi, coccodà. Sai quella là? Chi coccodà non diventerebbe. Ma sono inventata perché quello è trottolino. Esatto. E io dico coccolino perché voglio coccolare. Hai visto mai? Convocati. Allora Filippo, prima io e Pier stavamo dicendo che il Torino è quella, insomma, che è uscita con più dubbi da questa Italia delle coppe, però entrambi siamo d'accordo sul fatto che la qualificazione Atletico Bilbao non se la porterà da casa, sebbene no, a casa dipende che Atletico Bilbao gioca, perché ieri c'erano le riserve in campo, non so quanto è stato fatto notare questo. Cioè l'Atletico Bilbao senza Duriz perde uno che gli ha fatto tra il 40 e il 50% dei propri gol, e al ritorno, se ci sarà, sarà proprio un'altra musica. Ieri c'era il portiere di riserva e davanti giocavano Vigliera e Iñaki Williams, che era il debutto europeo, tra l'altro il primo nero a far gol per la Atletico Bilbao, è un ragazzo nato a Bilbao da madre liberiana e padre ghanese, però appunto mancavano dei giocatori fondamentali e questo un pochino diluisce, se vogliamo, sì, questo il pareggio del Torino. Secondo me se l'Atletico, come io poi ho parlato con i giocatori, hanno detto no, noi vogliamo vincere questa Europa League, e se schierano la formazione migliore non la vedo durissima, anche perché poi San Mamés è un difficile. Grande stadio, insomma, sì, il Torino sì, manca esperienza internazionale, un po' lo pagheranno come l'ha pagato il Napoli, insomma, in Champions League. Per cui vediamo, il Torino lo vedo male, le altre insomma, non lo so, vediamo le altre, la Roma. La Roma mi sembra quella più in bilico, anche se Pierluigi è fiducioso per la partita di Feyenoord. Penso che sia favorito il Feyenoord, però secondo me è aperta, nel senso che sì, apertissimo. Insomma, non è un risultato drammatico, anche se non è il risultato che la Roma ovviamente sognava. Dal punto di vista tecnico, secondo me, con tutta la povertà che si è vista ieri, però la Roma è più forte e quindi è una partita appesa, secondo me, agli episodi. Faccio fatica a immaginare una Roma travolta che non tocca palla a Rotterdam. No. Penso a una partita equilibrata nella quale se troverà un po' più di ispirazione e di cinismo sotto porta, perché poi la differenza la fa anche quella, cioè Gervinho si mangia un gol pazzesco dopo 6 minuti. Detto questo, poi che la Roma sia in rottura prolungata non ci sono dubbi, è chiaro che il Napoli per esempio dalla giornata di ieri esce con una forza anche psicologica per la lotta per il secondo posto assoluta, però secondo me a Rotterdam la Roma se la gioca. Senti, ci dai un'interpretazione autentica del nuovo affare Ancelotti, sempre a proposito di dichiarazioni, stereotipi? Allora io lo definirei così, una battuta infelice quella di Sacchi, cioè una frase infelice commentata o appoggiata da una battuta altrettanto infelice, cosa che io poi ho anche detto chiaramente anche a Ancelotti, con cui ho parlato ieri. Sacchi può aver ragione, bastava dire ci sono troppi stranieri in Serie A e anche nelle primavera, e questo è un dato inconfutabile, perché noi vediamo squadre che scendono in campo con 10-11 stranieri. Nel momento in cui pronunci la parola neri ti vai a mettere su un territorio minato, e se poi per difenderlo usi la frase molti nemici molto onore, non fai la cosa più intelligente di questo mondo, bastava dire so che Sacchi non è razzista, sono dalla sua parte, punto. Lì è una problema di scelta di parole, i concetti ci stanno, sicuramente Ancelotti non è fascista e Sacchi non è razzista, su questo non abbiamo nessuno, questo dubbi, posso proprio confermarlo a livello personale, esatto. Ma no, ma è chiaro, però nel momento in cui pronunci quella frase cioè tu dici ciao Arrigo, molti nemici molto onore, è chiaro che ti esponi a un attacco, ed è a me mi ha sorpreso, perché voglio dire, Non è eccessivo? Non è eccessivo? Ma sì, è eccessivo, però, però no, non so come dire, cioè, però può succedere di questi tempi, voglio dire, sono tante persone già super navigate, non c'è bisogno, basta dire le cose in un altro modo. Sono proprio scivoloni, anche se ribadisco quello che dicevo un paio di giorni fa, cioè che comunque poi alla fine deve contare secondo me l'interpretazione che uno vuol dare, nel senso che se a Sacchi esce quella frase lì in un discorso di 10 minuti e poi però lui ti dice assolutamente non sono razzista, tengo a chiarire, una volta che lui chiarisce, quella è la sua risposta definitiva, non so, come quel quiz lì. Ecco, su questo mi dà un po' fastidio. Mi sembra che ci sia una cultura mediatica, sì, ci sia la ricerca dello scandalismo, no? Soprattutto sì, poi. Però aspetta, però tu devi mettere tutto questo in un contesto che viene da Tavecchio all'Ottocento. Allora, è chiaro che bisogna fare, cioè sono diverse le persone, però quella è, diciamo, l'Italia è questa, però all'estero almeno, e poi dico. Allora bisogna pure farsi. Pensa due volte, insomma. Sì, l'Italia è questa, però scusate, torno al discorso di prima, così mi riscrive quello di prima. L'Italia è questa, ma è anche vero, però, che quando l'Italia ha questo tipo di situazioni, ci puntano il dito addosso e ci dicono giustamente da un certo punto di vista, no? Però se vale questo principio, allo stesso modo ci sono dei paesi che hanno il 25% della popolazione che vota di fatto per ideologie di quel tipo. Adesso non entro in una valutazione politica, e ribadisco che ognuno vota quello che gli pare, siamo in democrazia, però delle due l'una, non ci puoi rompere scatole, cioè, mi sembra che ci sia un certo doppio pesismo. Cioè, vuol dire, no, però se tu hai il 25% della popolazione che magari vota il National Front, non vuol dire, non può giustificare certe parole da un'altra parte, insomma, questo per me sono le due cose che viaggiano separate. Però io ti dico, sono semplicemente concetti espressi male in un momento delicato, in un momento particolare anche della nostra vita, sia calcistica che sociale. Bastava avere un pochino più di attenzione alle parole. Ci scrivono, ovviamente quello che ha detto anche Ancelotti, cioè la frase di Giulio Cesare, lo sappiamo, però è stata usata da Mussolini, che è un po' più recente di Giulio Cesare, per cui ma perché lì non era, cioè Giulio Cesare dice abbiamo ucciso tanti nemici e per questo diciamo abbiamo avuto grande onore, poi è diventata molti nemici, molto onore, è stata un po', cioè Mussolini ha fatto una sintesi, diciamo una sintesi. Comunque il senso è quello. Filippo, grazie. Ciao, Phil. Ciao. Andiamo di corsa da Gabriele Manto a Francesco Bologna. Abbiamo ancora tre minuti. Gabriele, buongiorno. Vai. Buongiorno. Io volevo dire due parole sulla situazione del Parma. Perché a me sembra l'ennesima sconfitta dei vertici, sia Federcalcio, Lega Calcio. Voi mi direte voi in particolare di chi? Perché a me sembra che l'UEFA se ne fosse accorta a luglio, quando alla fine della stagione scorsa, che questa società non dava più garanzie. Noi ora, al di là delle responsabilità di Ghirardi, che sono evidenti, è possibile che questa squadra abbia potuto partecipare al campionato esponendo la Serie A, una figura dopo già quelle di Tavecchio, di Lotito, a livello mondiale, cioè rischiamo di finire come un campionato di dilettanti, di quelli che a metà stagione una squadra si ritira e si resta con le squadre dispari, una domenica si fa il riposo. Io non voglio fare dell'otitismo, però mi domando la Lega Calcio dov'è? In questa situazione, cioè Lega Calcio non è l'associazione dei proprietari delle squadre di Serie A, cioè non è un ente? Sì. Dov'è? In una situazione non c'è, è chiaro che non c'è, non ha vigilato, non ha controllato, è incredibile l'assenza delle istituzioni. Adesso non so come possa finire, perché che fanno? Tengono il Parma artificialmente in vita con quali fondi? Perché i fondi non ci sono, lo levano dal campionato, e se lo levano dal campionato, allora poi parleremo di campionato irregolare fino a. Ne parleremo anche perché, fidandomi di Capuano, che l'altro giorno ci ha declamato la regola, il fatto che questa sospensione avvenga nel girone di ritorno fa sì che tutte le partite giocate siano valide, quindi ci siano delle squadre come l'Inter, come la Fiorentina, come la stessa Roma, che alla fine avranno avuto uno svantaggio, perché certo, uno svantaggio sul campo punti, perché hanno perso dei punti, non è che c'è stato il complotto, però altre non avranno il problema di doversela giocare col Parma, cioè avranno 3 punti gratis. Sì. Vabbè, insomma, questo chiaramente sarà un ulteriore elemento, però di fondo mi sembra che qui ci sia il dramma sportivo e ci sia, come dice giustamente l'ascoltatore, il dramma di un sistema che non sa vigilare, ed è incredibile, insomma. Sì, ma anche perché hanno parlato tutti di questa vicenda, il silenzio della Lega Calcio mi sembra assordante, e il fatto della Lega Calcio non non faccia nulla in questo momento, in questa situazione, e stia muta, mi sembra la cosa più grave anche di tutto. Anche se il problema è che non c'è una vigilanza a monte, nel senso che adesso la Lega Calcio può fare anche tutta la solidarietà, i comunicati e gli incontri con i giocatori che vuoi, però il problema è che per un cumulo così enorme di debiti, insomma, ci vuole del tempo. Sì. In tutto questo tempo nessuno è intervenuto. Ci fermiamo per il GR e poi torniamo. Tu ti fermi, Piero? Sì, sì, io sono qui. Fantastico. Oltranza. 800240024, dopo il GR ci ritroviamo. Guardate, vi mando un bacio. Eccolo qua. Che dire? Arrieccici. Tutti convocati. Dunque torniamo, Pierluigi Pardo qui con me in diretta direttamente dal Celtic Park. Yes. Dove era 20 ore fa, meno. Boh, sì, anche sì, meno poi col fuso adesso. Una roba del genere. Già sono fuso io, più c'è il fuso. E sì, sì, è bellissimo. Meraviglioso, è quello bellissimo, stadio. Veramente. A un certo punto hai detto in telecronaca: peccato rovinare con la grafica questa, sì, immagine dello stadio, c'era, guarda, con le formazioni. L'UEFA ha un canovaccio rigidissimo, cioè sì, ha tutto uno schedule preciso al secondo delle cose che devono andare in onda, inno, stretta di mano, grafica formazione, grafica arbitro, grafica altra formazione. E ieri secondo me sono stati in imbarazzo perché era veramente sulla difficile. Era difficile. Francamente, insomma, mettere la grafica dei panchinari Celtic, anche se ovviamente, insomma, poi il tifoso giustamente è un'informazione che gli devi dare, la grafica, ci mancherebbe altro, però insomma è stato molto bello. Un peccato perché comunque la partita che l'Inter doveva vincere l'ha buttata. Il risultato secondo me è rassicurante. Paradossalmente questo 3-3 potrebbe contribuire a evitare cali di tensione al ritorno, se avesse vinto magari di un gol poteva avere un approccio più morbido. Spero veramente che non ci sarà questo rischio. Ha dimostrato secondo me di essere tecnicamente molto superiore al Celtic, ha dimostrato anche di avere delle difficoltà difensive ancora molto pesanti. Mi chiedo se Vidic sia proprio così scarso. Ecco, non posso essere utile alla causa in un momento come questo. Grandi segnali da parte di Shaqiri, molto incoraggiante Palacio, comunque è tornata alla doppietta, non succedeva a Inter-Lazio dell'anno scorso, da maggio scorso. Medel ha fatto la sua partita di battaglia in mezzo al campo, che è quello che deve fare, si è visto che Brozovic è un giocatore che serve, per cui quando non ce l'hai in Europa League è l'assenza che pesa. Mentre Kovacic sbocciato. Beh, Kovacic è entrato nel secondo tempo, non è che abbia acceso la lampadina, ma lì la notizia è che non era titolare, insomma, quella è la notizia principale. Francesco Bologna, buongiorno. Buongiorno, complimenti a tutti per la trasmissione. Grazie, Dica. Grazie. Un saluto particolare a Pierluigi, il grande Pardo. Grazie. Vorrei che il grande Pardo si complimentasse con Antonio Cassano, perché Antonio Cassano non è scappato. Antonio Cassano si è ritirato rinunciando, come ha detto lui e come si sa, a parecchi soldi, rinunciando a una farsa che ha veramente dell'incredibile per quanto riguarda il Parma. Per quanto riguarda i fatti di Roma, non vi ho ancora sentito parlare di responsabilità oggettiva. Ma questi signori che vengono a distruggere Roma, che sono chiaramente seguaci del Feyenoord, ci si dà 3-0 a Roma, 0-3 in casa, 5 anni di squalifica al Feyenoord, come è successo tanti anni fa con gli inglesi. Sì, facciamo dei regolamenti. Sì, dei regolamenti. No, io sarei anche d'accordo, nel senso che comunque l'oggettivo esiste. Abbiamo accennato al fatto che purtroppo, per fortuna, vedete voi, dal punto di vista dell'applicazione possibile di questa norma, tutto è avvenuto lontano dallo stadio. Quindi l'UEFA ma da parte dei tifosi. Ma non c'è dubbio, non erano a visitare Roma. Ma non c'è dubbio, è chiaro. Non è un turista del Feyenoord che spara un in gala in un giorno così, appunto, qualunque. No, non ci sono dubbi, ma mi aspetto dall'UEFA qualcosa, sono molto curioso e ripeto, sono stato anche sorpreso da quel comunicato di ieri pomeriggio, arrivato fra l'altro nel momento veramente anche mediaticamente di tempesta, no? Subito dopo da Ferugli, che era un comunicato molto freddo nel quale si faceva riferimento al fatto che non potevano intervenire, che sarebbero intervenuti soltanto in caso di episodi di questo tipo allo stadio, che poi sono ovviamente anche legati all'atteggiamento della polizia e alla qualità dei controlli, nel senso che fortunatamente allo stadio non è successo nient'altro perché poi sono stati controllati bene. insomma, mi sembra veramente, comunque dal punto di vista concettuale lei ha ragione, insomma, è ovvio che questi sono tifosi che non vorremmo più vedere viaggiare per un bel po' in Europa. No, poi si fanno molte battaglie, l'UEFA sta facendo molte battaglie sul razzismo, sta facendo molte battaglie giuste, corrette, ma in qualche modo un po' demagogiche. Quando succedono fatti di questo tipo fa fatica a prendere posizione. No, ma infatti è questo. Perché se sto una guardando... cosa di Avalia appende uno striscione con una connotazione vagamente di quel tipo, l'UEFA interviene immediatamente e la storia si fa diversa. Oh, guarda, c'è un tuo amico. Chi è? Guido Meda. Oh, ciao, come Guido. Ma grandi. Ciao ragazzi. Come stai? Bene, ma Pardo, ma mi hai preso l'ufficio, so. Sì, però l'ho diviso con Taveri. Bravo. L'ho diviso con Taveri, che fra l'altro Taveri si è preso tutto il lato figo dell'ufficio, quello vicino alla finestra, e poi si è allargato. Sulla porta? Poi c'ha 84 già, che non lo so, Taveri è un... Io c'ho il mio posticino. Poi sta faccia cupa, malinconica, cosa matti. No, vabbè, comunque insomma la stanza di Guido Meda è improvvisamente tornata nel... Sì, intanto... Nel torpore, proprio, lui, perché lui ci aveva un sacco... Io sono contento che ce l'abbia tu e Mino. Ah, momento romantico. Io in compenso ho preso la tua stanza a Sky. Qual era? Io quella non ce con la poltrona di pelle umana. Io ho preso Guido Meda. Ha preso la stanza con la poltrona di pelle umana e mille piante di ficus. Non mi risponde neanche per Mettetela. Telefono. Non è vero. Ma ti hanno dato quella, mi hai detto, no? Cioè quella, la carta, quella gold platinum Swans. Quella carbonio. Come va? Che farai quest'anno? È di tutto. Molto bene. Ma quest'anno farò... Secondo me quando inizieranno i due mondiali, Formula 1, direi soprattutto MotoGP, non dico che comincerà un po' il mio riposo, ma diciamo che la telecronaca è la parte che mi preoccupa meno, cioè certo. Il fatto di sì, nel senso che questa è proprio una fase di organizzazione tostissima. E qua, come tu forse essendoci passato sai, il dettaglio conta da morire e la procedura per arrivare alla definizione di un buon dettaglio è una procedura lunga, per cui per me si tratta, credo, di riuscirci abbastanza bene. Ci sto provando, di cambiare un po' mentalità e di entrare in un sistema di lavoro complesso, ecco. Però fighissimo, cioè un salto nella quarta dimensione. Sì, con la possibilità, essendo tu un fuoriclasse, lo dico io, non dici tu, che insomma che anche loro si prendano, no, il cambio di mentalità che gli porta un fuoriclasse, quindi insomma da questo punto di vista è reciproco. Vabbè, tu non puoi dirlo, basta. Però ti capisco sul discorso delle telecronache, perché generalmente i giornalisti sportivi si dividono in due categorie, giornalisti in generale, no, quelli che poi vanno a fare la line, cioè vanno a fare, come si dice in gergo, cioè vanno a fare i caporedattori, a coordinare, a occuparsi ovviamente delle responsabilità vere, reali, gravose, e quelli che invece poi alla fine rimangono eterni bambini e quindi vanno, godono sopra, ecco. E diciamo che insomma siamo nella stessa categoria da questo punto di vista, quindi ti capisco casa, perfettamente, no? Che fra un io po' ti riposerai. Vorrei riuscire a fare tutte e due le cose, cioè riuscire ad essere un buon capo e un discreto telecronista rimanendo eterno bambino. Sì, ma MotoGP torni un po' a casa, però Guido, è un po' ritorno, sì, a casa, no? È un po' un ritorno a casa andando via da casa, nel senso che comunque ho lasciato una casa che era Mediaset, è un ritorno a casa quello della MotoGP, però sarei anche scorretto se dicessi che l'anno scorso è stata una sofferenza. Con il passare del tempo si diventa più maturi e l'idea di fare le telecronache del mondiale Superbike in fin dei conti non era affatto male. Stava bene, posso testimoniare, stavi bene, non t'ho visto mai, non t'ho visto mai sofferente. Che mondiale vedrai? Posso dire che anche perché poi ogni giorno arrivavano cose e dicevano: ah, quanto ci manca a me, ma come lo faceva le telecronache, ma era come se le facesse, perché tutti pieni sul divano, il contumacia. Che mondiale racconti quest'anno, Guido? Cubo. Secondo me racconto un mondiale fighissimo. Cioè, guarda, parti dal presupposto che vabbè, Marquez è fortissimo, lo sappiamo, è un ragazzino baciato dalla stella del talento alla grandissima, che ha una moto pazzesca, ma dall'altra parte noi opponiamo Rossi per un verso, anni 36, ve lo voglio ricordare, 15 anni più di Marquez, con uno smalto addosso, stando a come ha corso lo scorso anno, che secondo me è invidiabile e continua a farne un patrimonio fondamentale dello sport italiano. Secondo me è abbastanza senza precedenti, voglio dire, che uno a quell'età possa tenere testa e sia adatti alla nuova maniera di guidare portata da Marquez, che ha alzato l'asticella in quel modo lì. Per cui lui c'è, mi risulta che abbia fatto un buonissimo inverno e che sia pronto. Il problema per Rossi, se vogliamo, ma non per noi che abbiamo bisogno di elementi spettacolari all'interno delle gare, è che Jorge Lorenzo, che l'anno scorso era arrivato alla partenza del mondiale imbalsito, grasso, 3 kg sovrappeso, dopo che aveva cacciato a pedate nel sedere il preparatore atletico, quest'anno invece arriva che è un figurino snello, elastico, pronto, per cui lui si inserisce nella lotta. Sì, mentre Pedrosa le prenderà da tutti come al solito e giocano in tre. Però noi, guarda, adesso Carlo, non è colpa tua, però purtroppo, specie negli sport che magari sono meno popolari di altri, cioè nel motociclismo tutti sanno tutto di Marquez e di Rossi, poi già da Lorenzo si passa per Pedrosa e si comincia a cadere nel luogo comune. Pedrosa è un figo pazzesco che purtroppo ha le sue stagioni da sempre punteggiate da un paio di sfighe determinanti che fanno sì che lui il mondiale non lo possa vincere. Però è uno dei pochi che va quanto Marquez, sì, o Rossi. Sì, un'ultima cosa, Guido, faccio un nome, uno solo, come sorpresa, ovviamente non aspirante al titolo mondiale, ma come outsider, Iannone. Allora io te la ribalto e dico Dovizioso, così per il gusto di essere bastian contrario, però abbiamo detto tutti e due Andrea che guidano una la stessa moto, sì. Allora, però capisco anche questo, cioè Iannone è un pilota generosissimo che schifa, gli puzza la vita e va fortissimo, riprendendosi un sacco di rischi. Purtroppo forse deve imparare a conoscere un po' di più il suo limite, e allora sì che diventa un pilota completo che può fare quello che dici. Secondo me è Dovizioso, che è più ragioniere se vuoi, ma con un grandissimo talento. Se la Ducati di quest'anno funziona, secondo me farà meglio di Iannone. Grazie Guido, tra poco si parte. Si parte, quando si parte? Quando si parte? Allora, la Formula 1. Da capo dei motori, devo dirvi anche quella, è una squadra pazzesca, poi in Formula 1 con un sacco di telecronisti che sono anche piloti, oltre a Vanzini. 15 marzo, MotoGP 29 marzo, ho finito. Ciao Guido. Ciao. Vi voglio molto bene, vi saluto. Anche noi. Ciao Guido Nemeda. Ciao. Michele da Foggia, buongiorno. Buongiorno, sono Michele Pace da Pricena. Tengo a precisare, proprio ai piedi del Gargano. Ah, conosce Pricena? Beh, a Pricena, chi non conosce Pricena? Ai piedi del Gargano, se non sbaglio, no? Sì, vicino a Padre Pio, ecco. Vicino a Rodi Garganico, alle Tremiti. Sì, sì. Innanzitutto vi faccio i complimenti per la trasmissione che seguo puntualmente tutti i giorni, e in particolar modo a Pierluigi Pardo per la telecronica di ieri sera. Grazie. Bella, molto appassionante. Poi ha raccontato 6 gol. Secondo il mio modesto parere, tengo a precisare che io sono un tifoso interista sfegatato. Sì? Secondo me ci manca ancora qualcosa. Mancini ha portato una mentalità vincente, però dovrebbe correggere un po' tatticamente, diciamo nel momento cruciale della gara sono indietreggiati, ecco, un po' troppo Medel, Guarin e Kuzmanovic, perché stando tutti indietro non abbiamo altro che fatto il gioco del Celtic. Sì, come Mancini ha peraltro detto. Secondo il mio modesto parere, se stavamo un po' più avanti in magazzino c'era un po' più copertura e non avremmo permesso quel gol all'ultimissimo minuto. Siccome è un episodio che si sta ripetendo un po' troppo spesso, ecco, non dovrebbe correggere quell'aspetto tecnico, ecco. Sì. Secondo il mio modesto parere, ripeto. Che ne pensi? Sì, bene, l'ha detto anche Mancini, no? Cioè, guarda, mentre nel primo tempo i due gol del Celtic sono arrivati veramente tipo fulmine a ciel sereno su errori individuali, e francamente dopo 20 minuti la partita era in controllo assoluto dell'Inter, quindi lì è stata una cosa abbastanza inspiegabile dovuta a quella dormita Kuzmanovic-Santon sul primo gol e a errori individuali. E nel secondo tempo l'Inter soffriva tanto, aveva avuto anche le occasioni per chiudere, per fare il 4-2, però insomma, ma lo sanno pure loro, guarda, io sono tornato in aereo con la squadra, insomma, ci sono ancora 1000 margini di crescita, 1000 miglioramenti che devono essere fatti. La tenuta difensiva è pochissima. Anche perché il Celtic onestamente non mi sembra una gran roba, No. Cioè, grande ritmo, grande cuore, spinta, insomma, però poca roba, non molto di più. Allora, stasera gioca la Juventus. A proposito di temi di campionato, ieri hai sentito che Allegri era parecchio nervoso? Sì, era nervoso per Cesena, no? Sì, senti qua. Ma fortunatamente è un gruppo molto responsabile e direi ci siamo guardati in faccia. Qualche cosina ho detto, però credo che subito dopo la partita abbiamo capito tutti, me compreso, della cazzata che abbiamo fatto. Sai che è tornato a parlare Mazzarri? Sì. Con un giornale giapponese, giapponese dicendo: non vedevo a mio avviso i presupposti per un esonero sportivo mentre mi sono fatto una mia idea sulla situazione ambientale, anche se tutti fingono di non sapere. Quanti minuti abbiamo? Vogliamo chiamare la persona che l'ha intervistato? 5 minuti e mezzo. Vogliamo provare a chiamare la persona che l'ha intervistato? Ce la facciamo? 5 non minuti. Non lo so. Adesso do il numero a De Luca, al signor De Luca. Sì, è tornato a parlare Mazzarri, giornale giapponese se non sbaglio. Sì, no? Giornale giapponese World Soccer Day Guest. Cioè, quindi ha detto queste cose, ma non mi sembra che tutti fingano di non sapere. E poi non dico altro, ci sarà tempo modo per parlarne in futuro. Gli addetti ai lavori hanno riconosciuto un'organizzazione di gioco precisa e propositiva nelle mie squadre, vi compresa l'Inter. D'altronde, la Juventus di Conte ha vinto 2 scudetti consecutivi con la difesa 3 e cambiò modulo per adeguarsi al nostro tipo di gioco. Ma non lo so. Saprei. Questo non lo so. No, però insomma io credo che il tema è un altro. Il tema è che Mazzarri è un buon allenatore che ha perso una battaglia, ha perso un passaggio della sua vita, ha fallito per la prima volta in carriera e non è un dettaglio, perché doveva essere il salto di qualità definitivo e non c'è stato. Però io penso che possa e debba e si meriti una panchina importante per provare a ripartire. Cioè, sono convinto che la sua carriera ripartirà e ripartirà bene. Non ho grandi dubbi da questo punto di vista. E penso che al di là di alcuni sprazzi abbaglianti che l'Inter ha fatto vedere con Mancini ultimamente, però insomma non è che i 3 mesi che sono arrivati dopo di lui siano stati 3 mesi eccezionali. Sì. Al di là delle medie punti, questa è una squadra molto più ricca, molto più forte, certo, che Mancini ha aumentato in termini di qualità tecnica, che fa gli stessi risultati che faceva prima, fino a prova contraria. Antonio Finco. Finco, ciao. Come sta il mister? Tu sei un po' in questo momento il consulente confidente, o sbaglio? Ma diciamo più che confidente, diciamo che visto che lo conosco circa dal 1990, quando ancora non faceva questo mestiere, diciamo che lo conosco bene sotto molti punti di vista, per cui credo che la carriera che ha fatto se la sia meritata completamente, visto che come ben sapete lui ha fatto una gavetta partendo dal ruolo di allenatore dei portieri del Napoli con Olivieri, quindi è arrivato a costruire quella splendida squadra che è stato il Napoli di Mazzarri. Napoli di Mazzarri è una squadra che tutti hanno riconosciuto come una squadra divertente, spettacolare, sì, che ha raggiunto 2 volte. Ma ha metabolizzato la delusione, Antonio? Ma direi che lui in questo momento lo sta vivendo prima di tutto guardando il futuro, quindi sta studiando l'inglese perché gli piacerebbe molto e lo affascina un'esperienza all'estero. Nello stesso tempo è ovvio che vivendo in Italia e leggendo i giornali tutti i giorni, vabbè, insomma, qualche giornata non proprio felice ce l'abbia ancora. Ecco. Certo. Insomma, quindi... Io so che c'erano questi numeri famosi, queste tabelle famose che in qualche modo sì, da un lato lo assolvono, dall'altro magari lo fanno stare anche male, no? Nel senso che poi l'Inter fino... Ma guarda, io l'ho detto più di una volta e continuo a dirlo in questi giorni, mi sono riguardato un po' in questo periodo tutto quello che è successo dal punto di vista mediatico e tutto quello che si è abbattuto nei confronti di Mazzarri in questo ultimo periodo, in queste famose 11 giornate, perché lui tutto sommato l'anno scorso, ricordiamo, all'Inter non ha fatto male, lui è arrivato quinto, ha riconquistato subito l'Europa League al primo tentativo, in una stagione dove c'erano 9 giocatori a scadenza, dove c'era la fine di un ciclo degli argentini del triplete, dove alcuni interpreti importanti di quel periodo ovviamente hanno lasciato la maglia nerazzurra, lasciando però qualche strascico. E tra l'altro poi c'è stato anche il cambio di società, quindi insomma voglio dire E un altro dato per dirvi che allora l'Inter ha segnato 35 gol in trasferta l'anno scorso, cioè, è stata la squadra che ha segnato più di tutti in trasferta, un record, più della Juve addirittura, dimostrando quindi che insomma tutto sommato questo gioco, se non se fai tutte quei gol, vuol dire tutto sommato il gioco c'era. No, ecco. Mancava un po' di qualità, mancava, e quest'anno doveva essere l'inizio di un nuovo ciclo, era quello, per questo motivo gli era stato prolungato il contratto fino a giugno. Ma le parole 2016. Chiave sono quelle che scrivi: situazione ambientale, cioè questa è la chiave. Ambientale, Antonio Dorrico sul settimanale 7 ha scritto che è stata una, per capire questa situazione ambientale bisogna fare riferimento alla parola revanchismo, revanchismo degli eroi del triplete, di tutti quelli che c'erano lì prima e che non lo digerivano più. Grazie Antonio, ciao Antonio Finco. Pier, ci andiamo? Sì. Che c'è adesso? Che tocca. Adesso Ruggeri. Qualità e personalità, va bene. Oggi è venerdì, venerdì, quindi c'è il weekend. Ci sentiamo. Parmodinese non si gioca. Parmodinese non si gioca. Domenica dalle 17. Dalle 5 alle 7. Poi lunedì, ovviamente, dalle 14. Tutti convocati. Grazie per ciao, belli. Ciao. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Di Nemo Amici in redazione. Ciao a tutti. Io da qua ne esco più. Forse non avete capito. Non mi butto qui in brando. Rimane qua con noi. Il brando qui con questi due belli ragazzotti qua. We'll be right back.